Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Dunque, Italia e Francia sono chiaramente indietro rispetto ad altri paesi europei sulle misure necessarie a ripristinare la competitività. Lo ha affermato questa mattina l'eurocommissario degli affari economici Olli Rehn durante un convegno a Bruxelles. Sui due paesi si è invece assistito a una certa correzione dei costi unitari del lavoro e questo si riflette in una crescita delle esportazioni che aiuta a ribilanciare l'economia. Così sempre Rehn, che ha concluso: tuttavia in Francia, in Italia, ma anche in Finlandia, lo ricordiamo, Rehn è finlandese, non abbiamo ancora visto compiere sforzi sostanziali sul ripristino della competitività economica. Ed è su questo, dunque, ha concluso il commissario, che questi paesi devono concentrarsi. Vi ricordo tra l'altro che Rehn da due giorni è candidato ufficiale, o meglio, si è ufficialmente candidato alla guida della Commissione europea dopo il 2014. E ora parliamo, come anticipato un attimo fa da Simone Spezia, dell'Ucraina. Dunque, l'ultima notizia battuta pochi istanti fa dall'agenzia: il segretario generale del Consiglio d'Europa, Thorbjørn Jagland, che ieri aveva offerto la mediazione dell'organizzazione con sede a Strasburgo, oggi arriva a Kiev, anzi in questi minuti arriva a Kiev, proprio per cercare di ridurre le tensioni e vedere se un dialogo tra le parti è possibile in un paese letteralmente spaccato in due tra tradizionali, possiamo dire, posizioni filo russe da una parte, filo europee, dunque filo Unione Europea, dall'altra. Intanto molti parlamentari europei chiedono la condanna della repressione. Supporto alle manifestazioni pacifiche e condanna della repressione messa in atto dalle forze speciali. Questo l'appello che emerge compatto dai commenti di molti parlamentari europei sulla crisi ucraina. Da 13 giorni i manifestanti assediano i palazzi del potere di Kiev, travolta dalle proteste europeiste dopo la decisione del governo di rinviare la firma dell'accordo di associazione e di libero scambio con l'Unione Europea. L'accusa è quella di aver bruciato un'occasione unica per avvicinare l'Ucraina all'Europa, scegliendo invece di restare nella sfera di influenza russa. Elmar Brok, presidente della Commissione Affari Esteri, mette in guardia il presidente Yanukovych. Penso che dovremmo sostenere le manifestazioni pacifiche, dice ai microfoni di Euronet Plus, e dire al presidente Yanukovych di fermare le forze di sicurezza, fermare le provocazioni che arrivano dal suo partito e prendere in considerazione di nuovo un cambio di rotta della sua politica. Deve tornare alla sua posizione originaria nei confronti dell'Europa, aggiunge Brok, perché, come vediamo da quello che sta succedendo, è la posizione che vuole la gente. Per Charles Tannock, deputato dei conservatori e riformisti europei, la soluzione per il paese potrebbe essere quella di tornare alle urne. Penso, sottolinea, che potrà essere un buon motivo per indire elezioni anticipate. Certamente auspico un'inchiesta urgente per capire chi ha dato l'ordine di usare la forza contro i manifestanti, che è senza dubbio un reato da punire per la legge ucraina. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E proprio su questo punto, poco fa un comunicato del Ministero degli Interni di Kiev, dunque del governo ucraino: a nome del governo intendo chiedere perdono per i comportamenti delle forze dell'ordine, così dice Azarov, il ministro dell'Interno, di fronte al Parlamento. Tutto questo appunto mentre, lo ricordiamo, il Parlamento ha comunque respinto la mozione di sfiducia nei confronti del governo. E con questo è tutto. Europa 24 torna domani poco dopo le 14. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.